reportage. Polonia, diritto e giustizia, ma l'Europa si preoccupa. Di Valeria De Rosa. "235 seggi, la destra di Jaroslaw Kaczynski ha giocato duro e ha preso tutto. Diritto e giustizia governerà in solitaria. Per la prima volta in 25 anni in Polonia non ci sarà una coalizione ma un solo partito alla guida del paese. Un successo aiutato anche dal sistema elettorale che ha spinto fuori dal Parlamento i partiti della sinistra. Gianluca Passarelli, professore di scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma. I partiti di sinistra non è che prima di ieri se la passassero benissimo, ecco, quindi quando si parla di spostamento a destra non bisogna guardare da un punto di vista eurocentrico, inteso della Europa occidentale o ancora peggio con la cronaca italiana, prima governasse la sinistra. La sinistra è stata al governo solo con Kwasniewski, cioè all'inizio nel 95 come Presidente della Repubblica. Dopodiché c'è stata una più o meno solida alternanza tra conservatori e liberali. È vero che c'è stato questo spostamento a destra, ma è frutto anche del sistema elettorale, il quale è un sistema elettorale proporzionale, però ha delle soglie di sbarramento molto elevate, o meglio abbastanza elevate, 5% per i partiti che concorrono da soli, 8% per le coalizioni. Siccome, come ha anche anticipato giustamente lei, alcuni partiti sono stati sotto soglia, quindi ci sono stati molti voti persi, è stato più facile per un solo partito essere sovrarappresentato e quindi ottenere addirittura la maggioranza assoluta della Camera, che è la prima volta che questo succede nella Polonia democratica, cioè per la prima volta un solo partito ottiene la maggioranza assoluta dei seggi. Donna la premier scelta da Kaczynski, Beata Szydło, moderata nei toni, tollerante nelle parole pronunciate davanti alle telecamere, ferma e determinata nel mettere fuori gioco l'avversaria e premier uscente Eva Kopacz. Ma il controllo del partito è e resta nelle mani di Kaczynski, spina nel fianco di Bruxelles e di Mosca. Come è riuscito Kaczynski a chiudere in un angolo i liberali del presidente del Consiglio europeo Tusk, che hanno guidato il paese, unico in Europa, a non aver conosciuto recessione? Luca Bernardini, professore associato di letteratura e cultura polacca alla Statale di Milano. Il fatto che sia cresciuta molto l'economia polacca non vuol dire che abbia portato però degli effettivi benefici alla gran parte della popolazione. Per esempio, hanno scoperto improvvisamente la precarietà, mentre era un paese dove effettivamente gli impieghi in generale erano impieghi abbastanza fissi, con una forte disoccupazione. È scesa molto la disoccupazione, ma è aumentata moltissimo la precarietà, soprattutto per quello che riguarda i giovani. E quindi è successo che di fronte a questo fenomeno un governo che non ha fatto nulla per arginarla, anzi semmai l'ha incentivata moltissimo, ha provocato una forma di rifiuto da parte di coloro che potevano in una qualche misura appoggiarlo invece per aver permesso all'economia di andare avanti. Un paese giovane la cui gioventù è emigrata proprio a causa della precarietà. Nelle città e nelle campagne sono rimasti i valori più tradizionali di un paese profondamente cattolico e timoroso di perdere sovranità. L'estrema svolta a destra affonda anche qui le sue radici. Sono scattati forse dei meccanismi molto radicati nella memoria, che sono quelli legati in fondo all'esperienza delle spartizioni. La Polonia per tra il 1795 e il 1918 non esiste più esistita sulle carte europee e quindi sulla necessità di difendere la propria sopravvivenza da un punto di vista culturale, quando questa non è minacciata, questa ovviamente non è minacciata in un contesto europeo, dove tutti devono assumersi le proprie responsabilità alla fin fine, e in questo momento sembra che il peggior nemico della Polonia, al di là delle ruggini con Putin per la questione dell'Ucraina, sia Angela Merkel e sia il governo tedesco con le sue politiche di apertura, di accoglienza nei confronti degli immigrati. E questo in realtà la dice lunga ancora su quali traumi storici la Polonia abbia nei confronti delle due maggiori potenze dalle quali si trova accerchiata. In campagna elettorale il partito di Kaczynski ha giocato la carta economica di ricerca del benessere per tutti a danno di banche e multinazionali e ha giocato sulle paure generate dall'immigrazione. I migranti però rimanda a dinamiche interne al paese e che fanno riferimento alla triade Chiesa, famiglia e ovviamente anche Bruxelles. Chiesa, perché essendo un paese abbastanza, diciamo, vicino ai dettami della Chiesa, Chiesa Cattolica, quindi tutta la questione relativa ai matrimoni gay, per semplificare, ai diritti civili, quindi questa apertura, Europa significa apertura, sto semplificando ovviamente, e noi vogliamo mantenere l'ordine della famiglia tradizionale. Secondo punto, i migranti, e quindi questo fa un po' il paio con l'elemento religioso, perché i migranti significa i migranti di religione musulmana prevalentemente, anche se non sempre così, pensi al caso siriano, ma non sempre così, ma in ogni caso immigrazione, quindi violazione della tradizione dei valori polacchi, che nelle regioni rurali sono squisitamente iperconservatori. La Polonia è molto conservatrice da questo punto di vista, sebbene non vada confusa con l'Ungheria. L'Ungheria di Viktor Orban, alla quale comunque la Polonia guarda in cerca di sostegno, nelle battaglie comuni per respingere i migranti e soprattutto per tutelare la propria forza lavoro, che ha tutto da perdere dall'arrivo dei profughi. Ci sono questi elementi di conservazione, ma vanno analizzati con calma. È vero che c'è stata però una campagna elettorale molto forte. C'è stata una campagna elettorale giocata sulle paure generate dalla debolezza dell'Unione Europea nel gestire la crisi migratoria. Kaczynski ha sottolineato, cito, il colera portato dai migranti nelle isole greche, la dissenteria a Vienna, diversi tipi di parassiti, e quindi capisce che il partito di Tusk era in difficoltà a giocare il ruolo di partito conservatore e viceversa, non arrendersi all'euroscetticismo dell'estrema destra, chiamiamola così. I due, Kaczynski e Tusk, non, diciamo, per usare un eufemismo, non si amano, e questo ha giocato un ruolo a favore degli sfidanti al governo, perché in realtà Legge e Giustizia era già alla presidenza, aveva già vinto in maggio le elezioni presidenziali, quindi queste elezioni presidenziali si inseriscono nel cosiddetto effetto luna di miele, che noi sappiamo in tutte le elezioni successive alle elezioni presidenziali il presidente beneficia di un effetto benevolenza da parte degli elettori. Sarebbe sbagliato pensare che la Polonia intende modificare drasticamente la rotta della sua politica estera e in particolare la propria posizione in Europa. Attenzione, perché il partito di Kaczynski è all'interno dell'Eurogruppo del Partito Popolare ed è stato, diciamo, sostenuto, sponsorizzato da David Cameron, e quindi spesso c'è stata una marcia insieme tra Gran Bretagna e Polonia quando si trattava di stabilire principi di sovranità. Ciò non significa che la Polonia uscirà dall'Europa, anche perché ci sono circa 1 milione di lavoratori polacchi in giro per l'Europa, in particolare in Gran Bretagna, che beneficiano dei vantaggi dell'adesione all'Unione Europea. E quindi tutto ciò che viene ogni tanto strillato fa parte anche di una dinamica che va oltre le cancellerie e che rimanda soprattutto alle campagne elettorali. Sarà difficile assistere a reazioni scomposte da parte degli altri paesi europei. Aspetteranno di vedere e capire come intenderà muoversi Varsavia, che al momento, tanto per dare un segnale però, ha già rifiutato di ratificare la proroga del protocollo di Kyoto contro i gas serra, perché, ha spiegato il presidente Duda, l'accordo genera costi sociali. Questo la dice lunga sul fatto che l'Europa sia attraversata da un fenomeno molto profondo di populismo. Nonostante la crescita economica, la Polonia è a favore della NATO, quindi noi di solito pensiamo ai paesi dell'ex blocco sovietico come ostile e così via, poi è, diciamo, ostile alla Russia di Putin e in particolare a Putin. In politica gli aspetti umani contano molto, anche per la vicenda legata alla morte di Kaczynski, la vicenda dell'aereo precipitato, diciamo così, le cui cause sono ancora non note, ma su cui Kaczynski vorrebbe tornare con indagini approfondite e così via. La Polonia si trova tra la Germania, che è un grande competitore sul piano economico, sul piano militare, sul piano geopolitico, e la Russia. E quindi un po' la Polonia sta a cavallo dei due delle due corna del dilemma, e quindi non è che abbiano chiaro nelle cancellerie che cosa fare. E viceversa, proprio per questa sua ostilità nei confronti della Russia, per questa sua centralità economica ma anche geografica, io non credo che le cancellerie, diciamo, dell'Europa occidentale, di Bruxelles, si muoveranno in maniera dura nei confronti di Varsavia immediatamente, perché l'Europa ha bisogno della Polonia. Ciò detto, c'è un aspetto più specificamente polacco. Negli ultimi anni il paese ha espresso in più di un'occasione la propria intolleranza nei confronti delle forme di dissenso rispetto a una narrazione incentrata sul cattolicesimo e la identità polacca in generale. Le reazioni a suo tempo a quello che a noi all'esterno è sembrato come una cosa molto bella, l'attribuzione dell'Oscar per il miglior film straniero a Ida di Paweł Pawlikowski, incentrato sulle vicende appunto di una donna che improvvisamente scopre di essere figlia di due ebrei che sono stati uccisi dai polacchi, dai contadini polacchi, semplicemente per impadronirsi dei loro beni, non per un vero antisemitismo. Nonostante il film sia stato acclamato come un film molto bello, non solo dalla critica ma anche dal pubblico in Europa occidentale, in America, in Polonia è stato attaccato violentemente perché faceva vedere le responsabilità che esistono anche appunto dei polacchi per quello che è stata la vicenda dello sterminio degli ebrei. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.